Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 8 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è torta alla sbriciolona. Ingredienti per 6 persone: 250 g di farina bianca e 200 g di farina gialla, 250 g di mandorle, 120 g di burro, 120 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, la scorza di mezzo limone, 2 tuorli d'uovo, un bicchierino di rum, una bustina di zucchero a velo, un pizzico di sale. Preparazione: setacciate insieme farina bianca e farina gialla, mescolate con la vaniglina, disponete a fontana sulla spianatoia. Unite lo zucchero, la scorza di limone, le mandorle tritate, un pizzico di sale e mescolate bene. Fate il cratere al centro e mettete il burro, i tuorli e il liquore. Amalgamate gli ingredienti e ottenete un impasto non omogeneo ma sbriciolato. Ungete la tortiera, sbriciolate l'impasto con le dita e versatelo nella tortiera. Ponete in forno già caldo e cuocete per circa un'ora. Togliete la torta dal forno e spolveratela con il zucchero a velo. Buon appetito! Vini consigliati: Moscato dell'Oltrepò Pavese, Lombardia a 12 gradi. Bianco di Castelfranco, Amabile, Emilia a 12 gradi. Grazie a tutti, questa era la puntata numero 8. Io sono Fabiola e il mio programma è A Tavola con Fabiola e questa è Radio Big Ball. Alla prossima!